Le strade della comunicazione. Gestire l'arte e il mercato che genera. Un campo nuovo, in forte crescita, che necessita di figure professionali specifiche, manager, critici, galleristi, direttori di museo, consulenti, professionisti in grado di gestire il rapporto tra arte e mercato in tutte le sue fasi, tra fascino della creatività e concretezza del risultato economico. Curatore e organizzatore di eventi culturali. Questo professionista progetta e coordina esposizioni, convegni, festival e manifestazioni, svolgendo un insieme di attività, dall'individuazione dei contenuti dell'iniziativa alla programmazione dettagliata delle caratteristiche dell'evento, fino al reperimento fondi e alla promozione e valorizzazione dell'iniziativa verso il pubblico. Percorso accademico. Corso di laurea magistrale in arti, patrimoni e mercati dell'Università Yulm. www.yulm.it